mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato, mi è trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao.